L'economia delle piccole cose di Anna Migliorati. Aveva una casetta piccolina in Canada, con vasche, pesciolini e tanti fiori di lilla. E tutte le ragazze che passavano di là dicevano: che bella la casetta in Canada. Appartamenti di proprietà o presi in affitto per un mese almeno, magari l'intera stagione estiva. È tornato il turismo all'antica, familiare, tranquillo, prudente. Quest'estate l'economia di molte zone vocate al turismo, soprattutto al nord, sarà salvata dalle seconde case. Sia perché molti uffici resteranno in smart working fino a settembre, così molti hanno deciso di trasferirsi per tutta l'estate, sia perché, al contrario, restare bloccati in un albergo spaventa come un incubo. Ben ritrovati da Anna Migliorati. Non ce ne vogliano gli alberghi, parleremo ovviamente anche di quello, ma tutto questo accade con quale risultato? Cominciamo dalla nostra storia, le seconde case, categoria di immobili che non manca in provincia di Sondrio, dove esistono circa 75.000 alloggi sfitti, in buona parte villini, baite, casa di famiglia, appartamenti. In Lombardia quest'anno tutti richiestissimi. Salutiamo allora Renata Petrella, sindaco di Chiesa in Valmalenco. Grazie a voi, buongiorno a tutti, un saluto dalla Valmalenco. Ce la racconta questa Valmalenco? Allora, la Valmalenco è una perla incastonata tra le Alpi, ai confini con la Svizzera, in provincia di Sondrio, facilmente raggiungibile ormai da Milano. Fino a poco tempo fa era più impervio raggiungerci. È una valle dove la montagna è ancora vergine, dove non c'è un turismo di massa, dove ci sono tante frazioni che sono veramente carinissime e poste ai confini e quindi lontane dal caos. Uno dei regni di quella che forse era un'abitudine di qualche decennio fa degli italiani, delle famose seconde case. Quante sono? Sì. Allora, in tutta la Valmalenco, parlo di Caspoggio, Lanzada e Chiesa in Valmalenco, parliamo di 6.000 seconde case. Alcune sono magari vecchie case di famiglia, altre però sono state comprate nei decenni passati. Sì, parliamo di circa 20-30 anni fa, in cui tantissime persone hanno comperato appartamenti, ma anche case singole a Chiesa in Valmalenco, e quindi sì, alcune sono, diciamo, case di famiglia che poi magari vengono messe a disposizione dei turisti, perché ovviamente in questi piccoli paesi c'è la cultura di fare case che poi possono essere trasmesse ai figli, però tante sono veramente case acquistate direttamente dai turisti. Un'abitudine di anni passati che in questa strana estate ha visto un boom. Cosa vi aspettate? Quali sono i dati che avete? Da quello che ci risulta, facendo un po' di indagini sia sulle agenzie immobiliari che sui privati e sul consorzio turistico, probabilmente quest'estate ci sarà un vero e proprio boom di occupazione delle seconde case. Da quello che ci risulta, già alla fine di giugno le seconde case verranno quasi tutte completamente occupate, ma poi abbiamo avuto, per così dire, un termometro nel weekend del 2 giugno, quando è vero che la regione era ancora isolata da tutte le altre, però abbiamo avuto un afflusso turistico veramente importante per tutti e tre i giorni, e erano per lo più persone che occupavano seconde case, perché poi anche lì abbiamo fatto un'indagine e ci siamo resi conto che negli alberghi non c'era un grande afflusso, il paese però era veramente pieno, per cui erano persone che erano andate nelle seconde case. Quindi ci aspettiamo che quest'anno ci sia un remake sul ritorno a delle case che magari anche da tanti anni non venivano più aperte. Poi avremo a fine estate ovviamente un consuntivo generale, però la sensazione è di un ritorno ad una vecchia abitudine, un po' per la paura di viaggiare, un po' per motivi economici, un po' per sicurezza. Beh, a noi non può che far piacere, perché questa vecchia abitudine comunque porterà alla riscoperta della Valmalenco da parte di chi c'è già stato, ma soprattutto, siccome si parla di nuove generazioni, perché ovviamente queste seconde case sono state acquistate da persone che oggi hanno sui 70 anni, 80 anni, io vedo un ricambio generazionale, perché verranno i figli e verranno i figli dei figli, quindi i nipoti, per cui per noi è una vetrina possibile che le nuove generazioni si affezionino al territorio. Grazie allora per essere stata con noi. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Lui fece un'altra casa piccolina in Canada. D'altra parte non c'è nulla di nuovo, la storia spesso si ripete, era già accaduto negli anni ad esempio della crisi economica attorno al 2008 e anche degli attentati terroristici ancora prima. Per necessità o per paura, i proprietari delle seconde case avevano deciso di occupare le proprietà che invece negli anni precedenti venivano lasciate libere sul mercato. E allora, solo per restare appunto al nord, dall'estremo ponente ligure con Andorra e le sue oltre 10.000 seconde case, fino ai condomini di Borghetto, Loano, Finale o Varazze, la storia nei numeri di questa estate non cambia. Così come nelle valli bergamasche o sui laghi bresciani, con le seconde case meta del weekend diventate all'improvviso luogo di approdo dell'estate. E quindi... facciamo i conti. Ed è con noi il professor Fabio Corno, professore di economia aziendale all'Università Bicocca. Grazie e benvenuto. Grazie a lei. Ci aiuti a fare i conti. Cominciamo dal capire quante sono le seconde case in Italia. È ancora un grosso patrimonio? Ma è sicuramente ancora un grosso patrimonio. Stiamo parlando di 5 milioni e mezzo di seconde case su 32 milioni di abitazioni. Questi sono dati rapportati al 2019 dal rapporto immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. Stiamo parlando quindi del 17% del totale delle case adibito a seconde case. Questa proporzione di seconde case è diminuita nel tempo rispetto a quanto ad esempio rilevava il censimento ISA del 2011, che dava 7 milioni di seconde case, a testimoniare un pattern in profondo cambiamento. Comunque, possedere la seconda casa era un po' il sogno degli italiani del boom degli anni 70. Casa, poi sono cambiate le abitudini, sono cambiati i modelli economici e la possibilità di comprarle. Da un lato questo dall'altro anche ci sono sviluppate molte altre alternative a livello di modelli vacanze a buon mercato, low cost, eccetera. Di fatto hanno fatto una grande concorrenza a queste seconde case. Fino al 2017 solo il 16% degli appartamenti è comprato come investimento, mentre ancora 3 persone su 4 utilizzano la seconda casa ancora per le proprie vacanze, ancora oggi. Giustamente poi, come diceva, si è cominciato anche a girare il mondo, tra virgolette, quindi low cost, la possibilità dei trasporti veloci hanno consentito vacanze non sempre nello stesso posto e senza nemmeno avere le spese poi di mantenimento di queste seconde case, che hanno anche dei costi. Assolutamente sì, proprio in funzione dei costi di queste seconde case si è sviluppato questo mercato di affitti brevi. Dei 5 milioni e mezzo di seconde case di cui dicevamo, 900.000 sono destinate a locazioni brevi, e di queste 900.000 il 50% circa è in mano alla piattaforma Airbnb. Questi affitti brevi consentono di fatto al proprietario di casa di avere una grande flessibilità e avere dei ritorni molto significativi. Quest'anno, causa Covid, il mercato cambia ancora, stravolto rispetto al quadro che abbiamo appena fatto. E tendenzialmente, sempre modello Airbnb, si nota che molti proprietari stanno togliendo la propria casa dalla piattaforma. E quindi a testimonianza del fatto che una buona parte dei proprietari di seconda casa la utilizzerà per passarci le vacanze quest'anno. Siamo tornati a la uso io perché è sicura. La uso io perché mi fa piacere utilizzarla, perché ricordiamo che non abbiamo avuto indicazioni sulla possibilità di viaggiare all'estero fino a poco tempo fa, quindi tutti questi mesi sono stati gestiti all'insegna di una grande incertezza, e quindi la seconda casa ha costituito ha dato la possibilità a chi la possiede di avere una certezza. In Europa funziona così come da noi? Sul panorama europeo l'Italia si situa tra quelli a metà tra la Grecia e la Germania. In Grecia il 33% delle persone è proprietario di seconda casa per trascorrere il periodo delle vacanze. In Italia solo il 15% degli italiani ha una seconda casa, che in Germania il 5%. Se è vero che un europeo su 6 possiede un immobile che utilizza come casa per le proprie vacanze, gli italiani si situano, diciamo, nella media. Se è un fatto particolare di cui si è parlato, tra l'altro, in questa estate sicuramente anomala, dall'altra parte le case più richieste, gli alloggi più richiesti per le vacanze sono proprio seconde case, ma isolate. sono seconde case isolate con piscina che tendenzialmente sono prese in affitto non più per i 15 giorni ma per un mese, due mesi, tre mesi, e la cosa interessante è che queste case isolate sono utilizzate anche da chi sta lavorando in smart working e che vuole quindi cercare una soluzione più interessante e più agevole per lavorare. Quindi cambia proprio anche il modello. Se negli ultimi anni erano passati dal modello dell'affitto 6+6 a questi affitti brevi, in questi mesi si testimonia un ripassaggio non all'affitto di una volta, ma all'affitto medium term, quindi che supera diciamo i 60 giorni fino ai 12 mesi. Ovviamente è difficilissimo capire cosa invece di tutto questo resterà quando torneremo alla normalità. Quindi torneremo agli affitti brevi, resteremo agli affitti lunghi, alle seconde case. Questa è tutta una storia da scrivere. Assolutamente. E comunque vi siate organizzati, intanto noi siamo sempre qui invece con l'economia delle piccole cose, ci ritroviamo con la prossima puntata, ancora un saluto da Anna Migliorati, tutte le nostre storie www.radio24.it, l'economia attorno a noi, l'economia delle piccole cose.